sul mio nuovo giorno. Il mio pianeta è merda, non credo Cristo farà ritorno. Fra destini e lacrime spezzano queste rime. Vorrei stelle nelle notti, fuoco sopra il mio regime. Tu stringi le mani se scrivo su questo vento. Vorrei che la mia musica fra fermasse il tempo. Ehi, fredde pagine nutrono questi cuori. Se il peso di questi sogni è fra non ha valori, chi ne insegue i cieli del freddo di questa lacrima. Fra stringimi forte adesso, spogliami l'anima. A me spegni i sorrisi dentro gli occhi di mia madre. Mi fra perdono gli ali sotto il peso delle spade. Vorrei inseguire pagine, vivere giorni nuovi. Lei le piange sola nel freddo di questi rovi. Padre, perdono il fuoco che ha diviso i nostri sguardi. Vorrei stringerti forte, fallo prima che sia tardi. Abbraccia forte miei fra, di loro di non aspettarmi. Ho salutato il mio passato e l'ho fatto senza voltarmi. Un altro figlio di puttana, man, prova a fermarmi. Fra, da ragazzino mi hanno insegnato a rialzarmi. Se anime sporche strappano la voce al fuoco, ho messo la mia famiglia culo a terra in questo gioco. Fra, respiro il cielo in questi abbracci glaciali. Vorrei volare più in alto, le mie notti non hanno ali. Siamo pagine, lacrime bagnano stelle. Siamo pagine, freddi giorni sopra la pelle. Siamo pagine, spezza le ali mio cielo. Siamo pagine, vite scritte su questo cielo. Siamo pagine, lacrime bagnano stelle. Siamo pagine, freddi giorni sopra la pelle. Siamo pagine, spezza le ali mio cielo. Siamo pagine, vite scritte su questo cielo. Se il mio destino scava i volti dell'infanzia, fra salgono a prendermi spetti nella mia stanza. Me gli occhi del ragazzino nel freddo di ieri. L'infamia, mille troie, poi gli amori sinceri. Castro lacrime e foglie, adesso martiri in corsa. Scrivo cieli spogli, angeli stringono la morsa. Troppi colpi bassi, me la morta stringe i denti. Fra la verità scava nei cuori dei perdenti. Man, se l'ombra avvolge il fuoco di questi pianti, quando il mio fuoco chiude gli occhi agli sfidanti. Oh, così in alto che a volte il mio cielo scotta. Fra paura che un giorno questa vita mi fotta. Man, grido il mio nome mentre il cielo mi osserva. Fra, scrivo per dare voce a chi vive la merda. Man, sbarisco il cuore per ogni fighter che sbaglia. Uomo, il mio respiro spezza il freddo di gennaio. Se la vita strappa la luce di queste anime, se la pioggia lava l'odore di queste lacrime. Sogno manifre e cieli per ogni stella che affoga. Visto spezzare l'ali sotto il peso della droga. Se scrivo nel fuoco di chi ha un cuore sepolto. Fra, cadranno angeli in un cielo senza voce. Siamo pagine, lacrime bagnano stelle. Siamo pagine, freddi giorni sopra la pelle. Siamo pagine, spezza le ali mio cielo. Siamo pagine, vite scritte su questo cielo. Siamo pagine, lacrime bagnano stelle. Siamo pagine, freddi giorni sopra la pelle. Siamo pagine, spezza le ali mio cielo. Siamo pagine, vite scritte su questo cielo. Fredde anime, prigionieri fra terra e vola. Queste lacrime vivono i cuori di chi è solo. Siamo pagine, notti nel vento di settembre. Siamo pagine, e lo saremo per sempre. Fredde anime, prigionieri fra terra e vola. Queste lacrime vivono i cuori di chi è solo. Siamo pagine, notti nel vento di settembre. Siamo pagine, e lo saremo per sempre. Overfighters 2007, 2008, per tutta l'Odi città, per tutta Milano città. Se, bella coro, yeah, bella Marco di Corbetto, bella Mara, bella Mazza Ken, yeah. Pagine d'asfalto, altro capitolo, se, altro millennio. Das, oh, e questo è come lo facciamo in strada. Se, mani sul cuore, fra, Blade, mio fratello Rio. Se, dalla strada fino al cielo. Siamo noi, fino al cielo. Shake. Bella doppa, bella nastro. PSR Blackside Records. The End.